Femne er femmunde, de første munde, de gode med handelæm. På dig nu summen slukker rigtigt. Kan de som alle snus vil tjave et bunker tjek. Quel che penso la vita di ci vuoi forse sempre obbligare inna ci vuoi forse sempre obbligare inna. So fly a me tutti che quel belli guai di ciel velicia e portami lì di zulu. Carrina, carretta, cool, ciao e la gazzetta. Young lady, young lady. Venne per marcia, di paura con braccia. L'ultima corta scottia is post-frank by tearing still minds far dietes and vessels just large fratries scottia is out of book so molti forces and power. Forces and power bigger in now. So fly on me tutti, che quei belli guai nei cieli felici. E portami lì di Zulu, che sul miaccia signor. Ci voglio io all'espo, che se ne cretta ni cara ni cosa. Carrina, carretta, cu, ciao e la gazzetta. alla finale ci decidiamo.